Fabrizio Intonti. Di quando stavate per compiere 18 anni, come eravate tesi, come eravate impazienti, perché? Perché sareste diventati maggiorenni, ma lo sapevate che non sarebbe cambiato niente in un giorno, che non sareste diventati indipendenti dalla sera alla mattina, perché eravate così tesi? Perché potevate andare a votare? Ma raccontatelo a un altro, dai. Eravate tesi perché a 18 anni potevate prendere la patente, guidare la macchina, l'automobile, il maschio che è veramente maschio se guida la sua auto, la donna indipendente che non deve chiedere più nessuno, ma compagni, l'uomo che si può sentir dire mi accompagni a casa questa sera a rispondere sì, ho comprato la macchina apposta. L'automobile, la nostra forza e la nostra debolezza, perché poi quando parliamo di gente che vuole cambiare vita ci telefonano, ah sì, la macchina, non ce la faccio più, quanto vorrei non prendere più la macchina, non stare in macchina. Oggi parliamo di questo, se avete abbandonato l'automobile, se ce l'avete fatta, se non l'abbandonereste mai, se abbandonare la macchina è il vostro sogno, o se dite piuttosto nudo, ma la macchina non me la togliete. 800 24 00 24. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Ce l'ho a morte con tutti. Prima di tutto con tutti gli altri automobilisti, dove cazzo vanno sempre in giro con la macchina. A me la macchina serve, io c'ho da fare, devo andare in giro, dovessi anche andare a prendere il pane ci vado in macchina, su questo non ci piove. Ma gli altri, dove cazzo vanno? E questo è l'epocale personaggio di Joel Dix, l'automobilista. 51 minuti dopo le 3 del pomeriggio, questo è Giro di Vita. Oggi in questo orario inconsueto abbiamo iniziato prima del solito per i cambi al palinsesto di Radio 24 dovuti allo speciale per seguire le dichiarazioni del presidente della Camera Fini. Siamo qui un po' in anticipo, io sono Achille Corea, questo appunto è Giro di Vita, il programma che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 16 racconta storie di chi ha cambiato vita, di chi si è inventato un nuovo inizio. Il venerdì noi facciamo un programma un po' diverso, il venerdì parliamo di piccoli, ma non tanto, cambiamenti quotidiani. E oggi insieme a voi che ci potete chiamare all'800 24 00 24, ma anche scrivere alla nostra pagina Facebook che si chiama appunto Giro di Vita, parliamo di quelli che hanno abbandonato la macchina o che ci stanno provando, che vorrebbero farlo. E come fanno? Ci sono delle soluzioni, vanno a piedi, vanno in bicicletta, lo scopriremo, parleremo di questo proprio oggi con voi e con degli ospiti. Ad esempio ne parliamo con Vittorio Sartogo, benvenuto. Buonasera, grazie. Vittorio Sartogo è esponente dell'associazione No Auto, qual è la vostra ragion d'essere? La nostra ragione essere è quello che lei ha detto, cercare di fare in modo che l'auto, l'automobile individualmente sia usata un po' meno. Ci sono tutte quelle controindicazioni, se vogliamo così dire antropologiche, no? Che lei ha anche indicato nella sua presentazione, diciamo lo status symbol, la libertà del viaggiare, la maggiore età, eccetera, eccetera. Però poi questa libertà si tramuta, come posso dire, in immobilità ormai, no? Soprattutto nelle grandi città e soprattutto da parte di coloro i quali per scelta o per necessità hanno abbandonato il centro delle grandi aree metropolitane e si sono insediate nei dintorni, negli interland di queste città e ogni giorno si debbono recare in città per lavorare, per studiare, per curarsi. Ecco, lei ha detto per farla usare un po' di meno, quindi voi non siete degli estremisti del no auto, cioè voi non dite abbandoniamo tutte le nostre macchine e torniamo a vivere come 200 anni fa. No, diciamo così, in questo senso no, perché l'automobile, se usata in forme differenti, cioè se l'organizzazione della mobilità fosse pensata in termini differenti, senza caricarla soltanto sull'automobilista, diciamo così, anche l'automobile potrebbe avere la sua funzione. Come ben sa, in altri paesi e da un po' anche in Italia si usano collettivamente anche le automobili, sia in città con il cosiddetto car sharing, cioè l'utilizzo a tempo di una determinata vettura, sia il carpooling, cioè una vettura che trasporta, come posso dire, le quattro persone, le cinque persone e non una sola. In particolare questo potrebbe essere per le aziende, no? I lavoratori di un ospedale, di un ministero, di una azienda manifatturiera che abitano nei dintorni, insomma più o meno lontani, potrebbero organizzarsi e andare al lavoro insieme, abbattendo quel fenomeno di una macchina, una persona. Ma sono anche delle nuove figure, mi scusi, sì. I cosiddetti mobility manager, no? I quali mobility manager potrebbero essere anche i comuni degli hinterland della città metropolitana che organizzano la domanda di trasporto collettivo verso appunto la città, verso i luoghi di destinazione. Quindi potrebbe essere un fatto privato il mobility manager, esiste in altri paesi, noi l'abbiamo proposto anche in Italia, o potrebbero essere i comuni che si organizzano anche individualmente, perché i loro concittadini, nel momento in cui dovessero recarsi per i loro viaggi, diciamo, intendo i viaggi di lavoro, i viaggi non appunto il giro della Sicilia o no, le vacanze sulle Dolomiti, insomma fuoriesce da questa dimensione il tempo libero di questo tipo. Sì, sì. Senta Sartog, una curiosità che secondo me viene, lei che cosa fa quotidianamente e come si regola? C'ha la macchina, non ce l'ha? No, io naturalmente ho la macchina, no? Perché tutti abbiamo la macchina, però da molte non sono ancora diventato, per necessità familiari e professionali, simile a coloro che hanno abbandonato del tutto la macchina, però la uso pochissimo e questo naturalmente è un costo assurdo. Io abito a Roma e quindi girando nella città, per le necessità interne alla città, uso i mezzi pubblici. Mezzi pubblici che stanno in uno stato comatoso, no? Lei avrà letto, altri ascoltatori avranno sentito che la metropolitana B, una delle due linee metropolitane di Roma, non ha neppure l'aria condizionata. Quindi... Sì, ma quello penso che sia anche una condizione magari, insomma, che appunto è di Roma. Noi cerchiamo anche di parlare di altre parti d'Italia. Continuiamo con lei, però volevo sentire subito un ascoltatore. Andrea, pronto? Pronto? Andrea, lei ce l'ha la macchina, sì? Sempre in macchina. Perché cosa fa? Guardi, io sono commerciale, quindi sono in giro, le dico quanti chilometri ho fatto quest'anno, ne ho fatti 50.000 con la mia macchina, quindi... Ma lei sogna di liberarsi dell'auto o sta bene così? Assolutamente no. Le dico perché? Perché innanzitutto, grazie anche un po' al fatto che comunque il giro è un territorio molto vasto, ho la possibilità di non trovarmi negli ingorghi cittadini, cerco di evitarli dal punto di vista lavorativo, organizzandomi con orari che siano diversi da quelli dei pendolari. In più mi fa compagnia la radio, voi praticamente vi ascolto quasi in maniera continuativa dalla mattina fino alla sera, ovviamente oltre gli spazi che devo dedicare al mio lavoro, però ho la possibilità di essere molto più informato di chi magari fa un lavoro più sedentario. Ma una curiosità, quando lei poi va fuori nel weekend, prende l'auto? Certamente, molto spesso, devo dire la verità, lo spirito di guida cambia il mio stile di guida. Nel weekend divento molto più rilassato, molto più tranquillo, quasi da andatura di una persona che non ha degli appuntamenti, ecco, quindi un'altra personalità ma sempre seduto al volante. Giro di vita. tutti dopo le 4 del pomeriggio, Giro di Vita con Achille Corea su Radio 24. Oggi però abbiamo iniziato un po' prima, quindi se vi siete sintonizzati adesso apposta per il programma, abbiamo già iniziato e siamo già nel mezzo della nostra discussione, che è: si può cambiare vita abbandonando l'automobile, trovando o ritrovando modi alternativi? Vittorio Sartogo è al telefono con noi, è l'esponente dell'associazione No Auto. Sartogo, senta, ma ha sentito che c'è anche chi è contento di stare in macchina sempre. Certo. Quali sono le vostre iniziative per convincere queste persone? Beh, le nostre iniziative sono, diciamo così, il tentativo, intanto, se posso essere estremamente sintetico, di copiare ciò che avviene anche negli altri paesi. Per esempio, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti l'utilizzo della macchina è molto più contenuto di quello che non sia da noi, no? Di un terzo e della metà scende rispettivamente. Quindi vuol dire che anche attività come quelle svolte dal signore che ha parlato prima possono essere agevolmente come posso dire, perseguite anche mediante una differente organizzazione della mobilità. Come fanno in America e in Inghilterra? Ecco, appunto, fanno questo, hanno chiuso alla utilizzo dell'automobile parti importanti della città. La quinta strada di New York sta discutendo come trasformare la quinta strada appunto in un'arteria ferroviaria, e quindi, diciamo così, vi è un tentativo di affrontare il tema, sì, che l'utilizzo della macchina da parte di chiunque in qualsiasi momento voglia prenderla per organizzare il suo viaggio confligge con lo spazio a disposizione. Se lo spazio a disposizione viene minimamente liberato, diciamo, da questo surplus di automobili, anche le comunicazioni, che possono essere svolte con diversi modelli, addirittura, come lei sa, c'è non solo l'automobile elettrica, no? Ma un'automobile pensata per i percorsi nelle grandi città, quindi il tentativo di innovare nell'automobile evitando, come posso dire, l'automobile generalista, no? Allora, tutto ciò implica che i comuni e in particolare le grandi città e i governi riflettano su questo punto e destinino finanziamenti e ricerca a questa attività. Non ci si può fondare soltanto sulla pressione che può venire da questa o quella persona insoddisfatta. Bisogna fare i conti appunto con una mutazione, noi la chiamiamo, con una programmazione anche, insomma, non diamo solo all'automobilista il peso di dire: io lascio la macchina a casa e poi tutti gli altri intorno si muovono in macchina, no? Così. Appunto. Senta, noi le diamo l'indirizzo del vostro sito, che è noauto.org, per tutte le vostre iniziative. Ringraziamo Vittorio Sartogo. 800 24 00 24, fatevi sentire, automobilisti, contromotomobilisti, ciclisti, camminatori, telefonateci. Questa scelta di vita è sconsigliata se, quando andate a comprare il giornale a piedi, tornate in taxi. La vostra ultima bicicletta aveva le rotelle. Quando prendete il carrello al supermercato, tentate di metterlo in moto. Per arrivare al garage della macchina, prendete il motorino. Quando il vostro medico vi visita, vi chiede: acqua e olio, tutto a posto? Quando andate al mare, vi fate una bella nuotata in motoscooter. Sapete suonare Smoke on the Water con il clacson. Eh sì, questi sono dei sintomi, devo dire, che potrebbero essere preoccupanti, ma noi cerchiamo anche le cure, le alternative, quindi avremo altri ospiti che ci diranno come si può non usare l'auto nella vita quotidiana. Però intanto volevo sentire un'ascoltatrice. Nadia, pronto, benvenuta. Buon pomeriggio a voi. Nadia, grazie dell'accoglienza. Prego, Nadia, hai mollato la macchina? Sì, l'ho mollata circa 20 anni fa. Ho la patente, è appena rinnovata da 40 anni. L'auto l'ho lasciata semplicemente perché, tornando da una vacanza piacevolissima con la famiglia in Europa, ho avuto una richiesta da parte dei miei bambini di tanti anni fa, andiamo a scuola in bicicletta. Beh, è stata l'occasione per capire che si poteva decidere quando usare l'auto e quando invece tralasciarla per preferire altre modalità di spostamento. Nadia, città, da dove chiama? Io chiamo da Mirano, in provincia di Venezia. E distanza tra casa sua e la scuola dove portava i bambini? Poco più di 1 chilometro. Perché io devo poi anche sentire quelli che diranno, ma io abito al Tufello e i miei bambini vanno a scuola all'Eur. No, adesso questa è per chi conosce Roma, è impossibile, però ci saranno anche queste. Attenzione, se si decide che ci si può spostare con modalità diverse dall'auto e guardandosi attorno, ecco che se abito lontano posso usare il carpooling, non più l'auto personale. Io vi ho seguito fino ad ora e posso dire che la realtà in Italia è abbastanza critica, però possiamo cominciare a decidere di differenziare la nostra mobilità. Quando serve, come l'amico che fa 50.000 chilometri all'anno in Italia non ha molte altre scelte. Quando in città mi devo muovere però in autonomia o in compagnia a seconda dell'età, posso cominciare a guardarmi attorno. Non avere la dipendenza dell'auto è una cosa meravigliosa. Grazie per questo appello, Nadia, e cominciamo, che comincino quelli che possono, insomma. In sostanza, vediamo come anche con Marco Mastretta, che è il direttore del consorzio ICS Iniziativa Car Sharing. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, come funziona il car sharing, che magari qualcuno non conosce? Partiamo da quello. Car sharing è una di quelle alternative al possesso dell'auto di cui si parlava prima, perché è un servizio di mobilità che si avvicina in qualche modo al trasporto pubblico, perché consiste nel dare a disposizione degli utenti una serie di vetture che sono parcheggiate sulla strada e a cui l'utente abbonato può accedere liberamente 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno, previa prenotazione tramite call center, tramite internet, e che può usare come se fosse la sua auto per solo il tempo che gli è necessario. Dopodiché la rilascia al prossimo utente che la potrà utilizzare di nuovo. L'utente non ha costi di nessun genere, sono quelli direttamente legati all'abbonamento, che è annuale, e all'uso dell'auto, che è tariffata in funzione del tempo che si utilizza e dei chilometri che sono percorsi. Quanto si spende tendenzialmente? Intanto dobbiamo dire che noi diamo diversi tipi di vetture a disposizione, dalle city car, dalle piccole alle grandi, quindi il costo è proporzionale a queste, al tipo di auto, però diciamo, parlando di un'auto media all'incirca, si spendono circa 30 centesimi a chilometro e 3 euro all'ora. Ecco, io volevo sapere come va in Italia, perché io ho l'impressione che io per primo, tutti noi, gli italiani, vogliono la loro auto, quella dove ci buttano dentro un ombrello dimenticato lì dall'89, dove hanno le loro cose, i loro pupazzetti, dove fumano o non fumano nemmeno per sbaglio. Insomma, come reagiscono gli italiani al car sharing? Come sta andando? La cosa che dice lei è in parte vera, ma diciamo la tipologia di utente italiano dell'auto ormai è molto diversificata. Quello a cui lei si riferisce è una parte, forse ancora maggioritaria, ma esistono ormai molte persone, l'ascoltatrice di prima, che stanno sviluppando un approccio all'utilizzo dell'auto più cosciente. Non è che l'auto non vada utilizzata, anzi, ma esistono casi in cui l'auto è male utilizzata. Soprattutto è una risorsa molto cara, molto dispendiosa, che mediamente viene utilizzata pochissimo. Le nostre auto fanno, in media si muovono per circa 1 ora al giorno, le altre 23 ore stanno ferme, occupando spazio e così via. Quindi c'è un modo più razionale di utilizzarlo. Allora, esiste una fascia di italiani che ormai percepiscono l'auto più come un bene strumentale che come uno status symbol. Piano piano questa quantità di persone si sta diffondendo, anche se sicuramente la prevalenza dell'auto anche nell'immaginario è ancora elevata. In Italia noi abbiamo circa 20.000 utenti, siamo presenti in 10 città. In Italia, contrariamente a quanti molti prevedevano, il car sharing si sta espandendo come si è espanso nel resto dell'Europa. Ma il vostro obiettivo qual è? Siamo a 20.000, quanto pensate di arrivare nei prossimi anni? Noi non ci diamo obiettivi ambiziosi, noi vogliamo far sì che cresca come cresce in questo modo, soprattutto nelle grandi città italiane, e che offra la possibilità a chi vuole fare questa scelta di abbandonare l'auto, di avere comunque un servizio che gli permette di utilizzarla quando il trasporto pubblico non riesce a dare risposta alle esigenze normali di mobilità. Quindi è un modo per incentivare comunque le persone ad utilizzare ancora di più il trasporto pubblico, perché esiste comunque qualche cosa che può essere utilizzato oltre i limiti del trasporto pubblico. Noi pensiamo che nei prossimi anni, andando a questo ritmo, si arriveranno circa 80.000 utenti più o meno. Il 4 volte tanto. Soprattutto sì. Al nord, arriviamo a Roma e a Palermo, è l'unica città del sud che ha attivo il servizio. Va bene, noi la ringraziamo, diamo anche in questo caso il vostro sito, così possono informarsi icscarsharing.it. Vi invito sempre a chiamare, perché noi poi qui in fondo parliamo di cambiare vita, anche se in queste piccole cose, cioè la vita l'avete cambiata, così come la nostra ascoltatrice di prima 20 anni fa, la vorreste cambiare o proprio non ve ne cale, come si diceva nel film L'Armata, Branca Leone. Guardi quella macchina. Questa? No, quella. Qua. Guardi com'è ben tenuta. Come? Guardi com'è lucida. Pulita. Sì, è nuova, eh. È già, come se fosse un oggetto prezioso. È ancora da pagare questa. Il proprietario di questo bidone sa che cosa mi fa? Schifo. È uno stupido. È uno stupido. Che ancora non ha capito che la macchina è solamente un mezzo di comunicazione, capisci? Guardi bene, però. Che fa? Io! Con violenza! Arrivederci, Flacca. Dottor Accetti, mi dimenticavo la cosa più importante. Sì? A questo stupido l'assicurazione non lo paga nemmeno. E questo era Fracchia, che pur di far bella figura col suo capo fingeva che quell'auto non fosse sua ancora nel 1975. C'è gente che è il mito dell'auto, figuriamoci nel 2010. Sì, c'è gente che è il mito dell'auto, magari anche giustamente. Maila, benvenuta, un'ascoltatrice. Ciao, grazie, ciao a te e a tutti. Allora, come tu ce l'hai la macchina? Sì, ce l'ho e sono un'autodipendente, diciamo, per quel che la prendo, non ho bisogno, guarda, ti dirò, un giorno e mezzo sono stata senza macchina, ho ritirato stamattina la patente perché, mia colpa, mi avevano ritirato la patente perché era scaduta, sicché sono stata un giorno e mezzo senza macchina. Un giorno e mezzo d'inferno? Cioè, praticamente, ora esagero, ma insomma, non ti dico senza gambe, però... Ecco, insomma, l'esigenza di andare a lavorare, portare la bambina, il passeggino, le cose, poi tra dalla nonna e te vai a lavorare, poi riprenderla. Cioè, nell'insieme ti rendi conto, quando non ce l'hai, che veramente per te è importante. Cioè, come tutte le grandi storie d'amore, lo capisci solo quando la perdi. Maila, ma dove abiti tu? Non ci sono mezzi pubblici, tram, filovie, no? Ma sì, ma poi alla fine penso che... la praticità giornaliera quotidiana ti porta poi ad avere, se comunque tu hai questa abitudine qua, a prendere sempre la macchina. Lo so, però magari un giorno e mezzo, potevi insistere un po' di più, Maila, fallo qualche volta, prova 3 giorni, che so, 3 giorni senza macchina, una follia. Grazie per aver chiamato e adesso abbiamo un collegamento dalla Turchia, perché cominciamo a parlare anche un po' di alternative, quindi abbiamo al telefono Emilio Rigatti, benvenuto. Ciao. Emilio Rigatti è autore di un libro che si chiama Italia fuori rotta, viaggio a pedali lungo la penisola del tesoro. Viaggia in bici sempre, Rigatti? Ma insomma è una leggenda, prevalentemente viaggio in bicicletta, ogni tanto uso la macchina di mia moglie, però diciamo che non mi taglio le vene se non ho la macchina, ecco, anzi siamo parchissimi utenti di macchina, ti posso dire 3.000 km all'anno in macchina, 15.000 in bicicletta, giusto per parlare per cifre, ecco. E in questo momento dove sei? Sono a Sheikh Gazi, che è vicino ad Afio, dove c'è la tomba di Remida che dovrei andare a vedere domani. Sono in bicicletta, sono partito da Istanbul pedalando ed è un viaggio fantastico, caldissimo, si naviga sui 40 gradi in un paese meraviglioso e con gente ospitale e sicura. Adesso ho la bici a 1 chilometro da qui, neppure chiusa. Stanotte dormirò in una scuola. Ecco Emilio, tu che hai scritto anche un libro su come pedalare in Italia, quali sono i problemi per i pedalatori, per i ciclisti nel nostro paese? Beh, guarda, i problemi per i ciclisti sono sempre i soliti, cioè il poco rispetto degli automobilisti, oppure il traffico, come nel Veneto. Io ho appena percorso il Veneto con una mia classe, e il Veneto è tremendo, il Veneto è una grande autostrada diffusa, e questo è il problema, diciamo, ecco. Ma noi siamo contenti lo stesso e cerchiamo le nostre vie secondarie. E invece i ciclisti, qualche responsabilità, qualche atteggiamento diverso? Cioè, sicuramente, guarda, cioè, gli italiani sono gli stessi, montano in macchina e montano in bici, quindi il ciclista è indisciplinato e l'automobilista è indisciplinato, fanno parte dello stesso popolo di indisciplinati. Io cerco di rispettare le regole, ecco. In macchina e in bici, non bisogna nemmeno fare in macchina in un modo, però in bici in un altro, credo, no? Certo. Va bene, io ti ringrazio, cito ancora il tuo libro, Italia fuori rotta, viaggio a pedali lungo la penisola del tesoro, Emilio Rigatti. Io tra poco leggo un po' di messaggi su Facebook perché sono veramente belli, intanto 800 24 00 24. Ambe Virgilina ha presa la cotta. Ma la spinta? E dai, eh! Devo attaccare? Oh, fa come te pare, non rientra tardi. Dagli la bomba che sono morti! A me il ciclismo non mi è piaciuto mai, per carità, è uno sforzo antiestetico, un grosso alle cosce, meglio il biliardo. Ah, eccolo qua, il prototipo dell'automobilista italiano, Gasman, il sorpasso, anche se poi, vabbè, magari qualcuno non l'ha visto, non dico niente. Salvatore al telefono, pronto? Buonasera. Abbassa un po' la radio, come sì, si dice, come dicono i miei colleghi bravi, abbassa un po' la radio. Tu vai in macchina, sì? Sì, io vado in macchina, anche se preferirei, diciamo, non andarci. Però, diciamo, ho fatto una serie di riflessioni. La prima, a me piacerebbe andare in bici. Pronto? Sì, in bici, sì. Ma e perché non ci vai? Perché ci vado, però diciamo amo il brivido e il rischio, però fino a un certo punto, nel senso che in Italia quanti sono i chilometri di piste ciclabili rispetto ad altri paesi europei? Quindi già la bici ci vado, ma vado nei boschi con la mountain bike, perché è rischioso andare veramente, io diciamo, per la città. Poi, quindi la bici potrebbe essere un mezzo alternativo, ma ci vorrebbero le piste ciclabili e non ci sono. Un mezzo alternativo potrebbe essere il treno, ma quanti anni di ritardo hanno fatto i treni nel 2009? Tu quindi dici aiutateci, dateci una mano. Io veramente farei volentieri a meno, però in bici è rischioso. I treni arrivano, cioè è un luogo comune, ma è la verità. Ogni luogo comune è un fondo di verità. No, ho capito. Quindi dici, sei in mezzo, c'ho la macchina, vorrei prenderla questa benedetta bici, andare coi mezzi, ma aiutatemi. Di dove sei, Salvatore? Io sono di Pavia, vado a lavorare a Milano, ci sono andato un mese in treno, poi ho preferito vivere e ho preso la macchina. Ho capito, perché, quindi. Perché col treno non c'era possibilità. Automobilista quindi, di ritorno. Per forza, poi metropolitana, in Italia c'è a Roma due linee, a Milano... E noi vi invidiamo, pensa che noi vi invidiamo a Roma, una delle frasi più dette, ma a Milano c'hanno quella bella metropolitana. Tre linee, a Londra sono 24. Quindi... quelli non nemmeno li consideriamo. Ti ringrazio Salvatore, ti ringrazio perché dobbiamo sentire Luca Gianotti che fa parte dell'associazione La Boscaglia. Pronto? Pronto, buongiorno. Voi camminate? Sì, noi siamo appassionati del camminare, abbiamo scoperto la bellezza del camminare, soprattutto come momento, diciamo, di vacanza, però valorizziamo il camminare in tutti i suoi aspetti, anche in quanto terapia, in quanto comunque modo di spostarsi. Ecco, se però diciamo uno poi dice che il mezzo alternativo è pericoloso, se io vado in un posto camminando e prendo un rischio di venire preso da una macchina, rischio di prendere un malanno, voi come gli rispondete? Beh, io dico che comunque i luoghi dove camminare sicuri sono tantissimi, è chiaro, a parte la Cassia, poche strade pericolosissime, però facciamo l'esempio di uno che vive a Roma e che voglia fare un bellissimo viaggio a piedi, perché comunque camminare era anche dalla possibilità di scoprire i luoghi con un contatto diretto senza filtri. Io se fossi uno che vive a Roma partirei, me ne andrei a Viterbo e non, è, non c'è bisogno di fare la cassia, posso camminare benissimo sul Monte Mario, posso camminare nell'Insugherata e uscire da Roma attraverso i parchi e scoprire le vie secondarie, le stradine di campagna. Questo si può fare in posti anche assolutamente impensabili, come non so, da Milano, uscire da Milano sui Navigli per andare verso Genova. Cioè le possibilità di utilizzare il camminare proprio anche come momento di incontro, sono moltissime. Qual è la camminata più lunga che lei ha mai fatto? Ma quella che farò tra breve, partirò a novembre per un mese, 500 chilometri per attraversare tutta Creta, l'isola della Grecia, da est a ovest, ed è una piccola impresa, ma soprattutto è un modo per conoscere e costruire relazioni e incontri, perché il camminare è anche questo, è la possibilità di non avere i filtri, perché in fondo anche la bicicletta è un mezzo che ci allontana un po' dalla realtà, come un treno ancora di più, una macchina, siamo chiusi in una scatoletta. Il camminare invece è proprio la possibilità di incontrare non solo la natura ma anche le persone. E un consiglio per chi inizia invece, qual è diciamo, un minimo, un momento, per una tabella, non lo so, per iniziare a camminare come scelta di vita? Ma camminare lo possono fare tutti, ognuno ha il suo passo, bisogna pensare che anche le persone che non hanno mai camminato, anche quelle più anziane, tutti, basta che seguano il proprio ritmo. Io consiglio proprio questo, cioè organizzare una piccola camminata uscendo da casa a piedi, quindi arrivare tipo due giorni di cammino, oppure affidarsi alle guide come noi che facciamo questo, insomma. Va bene, diamo anche il vostro indirizzo, che è boscaglia.it, oppure uno potrebbe parcheggiare un po' più lontano, parcheggia un po' più lontano, e nelle grandi città succede spesso, e quindi cammina, comincia da lì. I messaggi su Facebook, c'è Claudio che ha scritto: siamo alle solite, l'automobilista non impedisce a nessuno di andare a piedi. C'è, ecco, c'è un orgoglio dell'automobilista. Mi piaceva anche molto nel suo piccolo il messaggio di Alessandro, sempre su Facebook, che diceva: quest'inverno ho provato sinceramente ad abbandonare la macchina, piedi e bici. Fantastica idea, tracheite e placche alla gola grosse come monete da 50 centesimi. No, grazie. Beh, invece poi c'è Rossella che invece dice che è una ciclista metropolitana da 10 anni, addirittura ha venduto l'auto. Insomma, varie posizioni e noi le abbiamo espresse più che si poteva. Io vi ringrazio. Grazie, noi ci risentiamo lunedì dalle 16 con Giro di Vita. Grazie a tutti da Achille Corea, ringrazio Chiappini per la parte tecnica. Buon weekend. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.